Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, telefoni aperti. Franco Piattenini, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Proviamo a parlare di calcio anche oggi, anche se andiamo verso una serata difficile. Vi leggo che cosa ha fatto sapere pochi minuti fa la questura di Napoli. In caso di esposizione di materiale offensivo, Napoli-Cagliari sarà sospesa. Nessuna tolleranza per striscioni, magliette, cori offensivi. Avete letto sui giornali questa mattina che gli ultra del Napoli pensavano di presentarsi questa sera al San Paolo con 30.000 magliette, speciale libero. Questa la risposta della questura. 800 24 00 24, parleremo di questo, parleremo delle sanzioni per Paris Saint-Germain e Manchester City che stanno arrivando e non sono carezze, e poi parliamo soprattutto dello scudetto della Juventus e del futuro di Antonio Conte, scudetto che è arrivato ieri sera, c'è stata la festa contro l'Atalanta, scudetto numero 32 per Andrea Agnelli, numero 30 per la federazione. Io sono ancora lì che sto cercando di capire la frase di ieri di Agnelli sulla terza stella. 800 24 00 24 se volete aiutarmi a capire. Per oggi si parla soprattutto di Conte, resta o non resta. Ieri sera sul suo futuro, sulla necessità di un confronto con la società, ha detto questo. Niente. Cioè, ti prenderesti un anno sabbatico come ha fatto Guardiola? No, io non devo prendere né anni sabbatici né niente, io devo parlare con i dirigenti, devo capire alcune cose, dopodiché faremo le necessarie valutazioni, sapendo che per me la famiglia, la Juventus sarà sempre la mia casa, la famiglia. Io sono juventino, lo ero anche quando sono andato in giro per a fare un po' di gavetta. Ho fatto le esperienze incredibili ad Arezzo, a Bari, a Siena, a Bergamo. Lui adesso che sono allenatore lo sarà sempre anche in futuro, quindi io qui mi sento a casa, in famiglia, però ripeto, abbiamo bisogno di confrontarci e di parlarci in maniera molto, molto serena e in maniera, ripeto, molto molto serena. A me sembra in realtà che la Juventus si sia già espressa in maniera abbastanza chiara sul futuro di Conte, forse no, forse non ha ancora detto le parole che Conte vuole sentirsi dire, forse i soldi che servono per fare il mercato che Conte si aspetta non ci sono. E poi Conte ha detto questa frase sull'impossibilità di ripetersi. Difficile se non impossibile migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno. Lo dico molto sinceramente, a cuore aperto. In un mondo che poi, tra virgolette, non perdona niente, perché comunque sembra tutto dovuto. Io fossi un tifoso juventino, qualche domanda me la farei sulle motivazioni di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Ha detto Conte impossibile ripetersi, forse per numero di punti ha ragione, Juventus che è a un punto dal record dell'Inter di Mancini in quello che fu un campionato particolare post Calciopoli, Juventus che è abbastanza vicina a raggiungere quota 100, che sarebbe una quota straordinaria, però anche dire che è impossibile ripetersi sembra un po' mettere le mani avanti. Un dato mi sembra certo, anche ascoltando ieri Conte, che non si è goduto tanto la festa per lo scudetto. Il dato certo è, secondo me, che Conte ha vissuto male negli ultimi mesi le critiche per le eliminazioni in Europa. Quest'anno la Juventus, per il secondo anno consecutivo, era l'unica rappresentante, è sembrato quasi un fardello, un onere ancora, poi essere massacrati come se tutti aspettassero la Juventus, senza contare che quando sono uscite altre squadre si è parlato però grande partita di questo, grande partita di quest'altro, invece la Juventus non è pronta. Sono 2 anni che stiamo lavorando, che stiamo crescendo e le aspettative sono di vincere la Champions. Questo Conte ieri sera, oggi c'è chi scrive sui giornali che ci sono già le alternative, potrebbero essere Roberto Mancini o Cesare Prandelli, che ha rinnovato con la nazionale ma in realtà non ha ancora firmato il contratto di rinnovo per 2 anni fino al 2016. C'è chi scrive che quelli di Conte sono messaggi lanciati per avere carta bianca sul mercato. C'è chi scrive che la Juventus non ha nessuna intenzione di rifinanziare come fatto nel 2011, quando la famiglia Agnelli mise 120 milioni di euro. Io credo siamo davanti a settimane che ci aiuteranno a capire molto del futuro della Juventus. 800 24 00 24 lo facciamo anche dopo il traffico con un collega che la Juventus la segue e la conosce molto bene. Traffico. Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10 euro, chiaro. Tutti convocati. Grande Conte umano è sceso dalla giostra, scrive un amico al 349-238-6666. Poi c'è chi dice anche Agnelli non riconosce la federazione, non mette la terza stella perché la federazione adesso, perché ne avrebbe diritto anche per la federazione quest'anno. Sì, però io non ho capito se il suo è un mezzo passo indietro oppure una nuova sfida alla federazione, perché in fondo mi pare di ricordare Agnelli avesse sempre detto non riconosciamo il conteggio della federazione, le stelle sono simbolo di quel conteggio e quindi sulla nostra maglia non torneranno, mentre adesso ha detto torneranno quando qualcun altro avrà maturato il diritto a mettere la seconda. Marco Ansaldo, inviato della Stampa, ciao Marco. Ciao. Tu hai capito cosa voleva dire Agnelli? Poi parliamo di Conte. No. Ah beh, su Conte ho delle idee. Sul fatto della terza stella mi sembra un giochino abbastanza inutile, insomma. Secondo me adesso che l'idea della terza stella vale per tutti, perché vale sia per la Juve che considera 32 scudetti, che per la federazione, perché adesso gli scudetti sono 30, secondo me bisognerebbe metterla. Però è anche vero quello che dici tu, che ai tempi lui Agnelli disse che la stella era un simbolo che ormai non aveva più senso, quindi da quel punto di vista lì dovrebbe mantenere la propria idea. Sì, a me dà l'idea di uno che vorrebbe un po' tornare indietro, sì. Però ha bisogno di un appiglio per farlo, perché evidentemente per lui mettere in questo momento la terza stella quest'anno, l'anno prossimo, fra 2 anni sarebbe in un certo senso come chiudere un capitolo, almeno dal punto di vista simbolico, cioè quello delle lotte contro le sentenze di Calciopoli. Tra l'altro so che nelle scorse settimane giravano dei sondaggi in rete tra tifosi juventini, alla sola idea di mettere la terza stella c'era stata una sorta di sollevazione. Però parliamo di Conte, questo balletto, resto forse invece parto, devo chiarire con la società, che secondo me ha già parlato in maniera abbastanza chiara. Vorrei capire qual è la tua idea. Ma la mia idea è che Conte, come già l'anno scorso, sia in questo tipo di situazione, cioè lui sa benissimo che per la Juventus e soprattutto per i suoi tifosi ormai lo scudetto è un dato acquisito, cioè vincere lo scudetto per il tifoso della Juve è ormai una cosa normale, è tornata ad essere una cosa normale, e lo dimostra l'atteggiamento che c'è stato ieri alla partita, secondo me imbarazzante. Io vedo la Juventus da quasi 50 anni e ti dico che è imbarazzante vedere uno stadio che si presenta alla partita celebrativa dello scudetto e poi in fin dei conti, tranne un pezzo di curva, si comporta come se fosse presente a una partita qualunque. Sì, c'è stato poco calore ieri, c'è stato poco calore anche domenica, nel momento in cui la vittoria dello scudetto è stata certificata dalla caduta della Roma. Del resto evidentemente i tifosi della Juventus sono sazi. Questo Conte l'ha capito benissimo. Quello che io non riesco a capire è questo continuo rilancio di Conte, quasi ad addossare alla società delle responsabilità che secondo me la Juventus non ha, perché gli investimenti ci sono stati fatti, sono stati programmati, il bilancio non è nemmeno poi così florido a leggerlo nei numeri. Beh, sai, comunque un allenatore cerca sempre di ottenere il massimo dalla società, e secondo Conte la Juventus, con i soldi che prende dal mercato, pensa più a attuare falle di bilancio che non a potenziare la squadra. In effetti, se tu vai a guardare quello che è stato l'investimento reale della Juventus nell'ultimo mercato, è ad esempio molto inferiore a quello del Napoli, Quindi se si vuole fare un salto di qualità, riporto l'idea di Conte, almeno per quello che posso immaginare, non tanto la mia, se si vuole fare il salto di qualità e andare in Europa con la possibilità di lottare contro delle squadre che già adesso sono enormemente lontane dalla Juve, bisogna fare degli investimenti, cioè non stare troppo a guardare il bilancio e quello che si prende investirlo sul mercato, cosa che mi sembra che la Juventus non si intenda fare. Poi ciascuno di noi può avere la propria idea, può essere giusto, può non essere giusto, però questo è il dato di fatto. Sì, c'è chi ricorda che Atletico Madrid e Benfica insieme fatturano più o meno quanto la Juventus, cioè in Europa si può anche essere competitivi e arrivare magari fino in fondo o comunque non fermarsi dove si è fermata la Juventus, anche senza mercati da centinaia di milioni di euro, perché poi lo abbiamo sentito prima, Conte ha vissuto male tutte anche le critiche che sono arrivate nel corso dell'inverno soprattutto per le prestazioni europee della sua Juventus. Probabilmente quello che non si è sentito è un minimo di autocritica in questi mesi, da parte anche di Antonio Conte, su come sono andate le due esperienze in Europa, soprattutto quella della Champions. Ah, su questo hai perfettamente ragione, l'autocritica non appartiene al suo bagaglio, al personaggio. Ma al di là di questo, ed hai anche ragione sul fatto che ci sono dei club che riescono con dei bilanci abbastanza modesti o comunque non molto superiori a quello della Juventus, addirittura a volte inferiori, a fare qualcosa di più. Il problema è sempre poi il punto di partenza, cioè l'Atletico Madrid è partito un po' prima della Juve nell'opera di ricostruzione e soprattutto poi ci va anche la capacità di operare bene. Sicuramente la Juventus ha della gente valida, capace, però ricordo che ad esempio la Juventus è la società che ha investito 14 milioni su Ogbonna e bisogna poi vedere alla fine che si possono anche sbagliare gli investimenti che vengono fatti. Ecco, invece secondo me una società che ragiona nei termini secondo me anche giusti della Juventus, cioè occhio al bilancio, non possiamo permetterci più di tante cose, il nostro fatturato è questo, non possiamo fare più di tanto, non può sbagliare niente, questo o sbagliare proprio il minimo possibile. Ti faccio sentire un'altra frase che mi ha molto colpito ieri, della lunga confessione a tappe di Conte dopo aver vinto lo scudetto. Ripeto, non aveva la faccia di uno che stava festeggiando lo scudetto anche lui, non solo i tifosi della Juventus. A proposito delle possibilità l'anno prossimo di vincere la Champions, c'è la storia che pesa come un macigno, però oggi quella storia non può essere supportata. Mi dispiace dire le cose come stanno e quindi è inutile che cioè, le aspettative sono di vincere la Champions, cioè, sinceramente non mi sento di promettere niente. No, dimmi come devono prenderla Agnelli e Marotta, soprattutto Agnelli. Ma sai, a me sembra un discorso abbastanza realistico, perché anch'io sono convinto che non esista il fatto che la Juve possa vincere la Champions l'anno prossimo. Gli esempi che hai fatto tu sono importanti, ma bisogna poi anche riuscire a farli. Ti dico, l'Atletico Madrid quest'anno è in finale, ma l'anno scorso si era fermato abbastanza prima. Il Borussia Dortmund è andato in finale un anno fa. Cioè, il problema è che ci sono oggi in Europa delle squadre che arrivano sempre in semifinale, poi possono arrivare in finale oppure no, ma comunque c'è un gruppo ristretto di 3 o 4 squadre che sono sempre le stesse e che ci giocano la Champions. Poi ogni anno a turno ne entra una. Ora tu dici sì, certo, quest'una potrebbe essere per una volta la Juve, ma è una specie di lotteria. Sì, c'è soltanto un biglietto a disposizione. Deve andare tutto proprio alla perfezione. E poi c'è l'altra cosa che ha detto, secondo me, Sacchi in un'intervista che ha pubblicato oggi sulla Stampa, che mi sembra molto intelligente. Bisogna fare delle scelte. La Juventus, da questo punto di vista, storicamente, non ha mai fatto una scelta tra campionato e Champions. E comunque ha sempre pensato che il campionato fosse una cosa molto importante. Anche quest'anno si insegue il record dei 100 punti, che secondo me è una demenzialità, e si è usurato la squadra per arrivare a fare il massimo in campionato sottraendole le forze per arrivare ad esempio in qualche modo di potersela cavare fino alla finale di Europa League, salvo poi mi pare di aver capito nelle ultime settimane tentare di correggere il tiro, poi però il Benfica era una signora squadra. Io quello che trovo strano del discorso di Conte, legato anche alla battuta che abbiamo sentito, quella sui 10 euro, se vai a mangiare con 10 euro in un ristorante da 100 è difficile che ti servano, io lancio una provocazione, a me sembra tanto di sentire il buon Prost quando disse la Ferrari è un camion, cioè io non credo che una società possa anche accettare dell'importanza della Juventus, degli investimenti, del bilancio, dell'immagine della Juventus, io credo faccia fatica giustamente anche eventualmente ad accettare questo tipo di discorso, perché comunque la Juventus non è sicuramente quella che si presenta con i 10 euro al ristorante, non ne avrà 100, però non lo so, mi sembra una critica eccessiva fatta da dentro soprattutto. Su questo è vero, e quindi qui secondo me c'è l'indice della rottura quest'anno più credibile che non in passato tra Conte e la Juventus, ed è l'idea di Conte di andarsene. Perché torno a dire, le frasi più o meno sono quelle dell'anno scorso, le ragioni più o meno sono le stesse dell'anno scorso, ma il tono di Conte quest'anno è diverso, mi sembra più deciso. Può anche darsi ad esempio che Conte abbia già una via di fuga disegnata e che quindi stia preparandosi a questo. Sì, è anche vero, l'impressione è abbastanza questa. Sì, io credo che sia così, però comunque non siamo ai 10 euro, ma non molto di più. Vorrei ricordarti che Tevez è arrivato per 9 milioni di euro, che è una cifra ridicola oggi. Sì, 9 più benissimo. Bonus che credo alla fine la Juventus fortunatamente pagherà tutte, che è pochissimo, però anche questo fa parte, ad esempio, della capacità di far fruttare. Sai, non è che tutte le volte... Cioè, allora, se tu spendi 9 milioni di euro per un giocatore di quel nome lì e ti chiedi perché alla fine Tevez abbia scelto la Juventus e non ci siano state delle squadre con obiettivi maggiori della Juventus a prenderlo, è una lotteria, cioè tu non vai sul sicuro, vai su una scommessa, le scommesse a volte vanno bene, a volte no. Allora, secondo me, quello che pensa Conte è che la Juventus ogni tanto non dovrebbe andare sulle scommesse che poi lui riesce a trasformare in certezze, ma deve andare su sicuro. Dei giocatori sicuro. Garantiti in partenza, questo è il fatto, perché se poi andiamo a guardare Conte, adesso è molto contestato per la storia dell'Europa e così via, però vorrei ricordare quando la Juventus, e non voglio fare il difensore dell'ufficio di Conte, ma lo credo veramente, quando la Juventus 3 anni fa prese Pirlo, tutti erano convinti che fosse uno ormai arrivato al capolinea. Quando prese Barzagli era un signore che era sparito nelle nebbie della Germania. Sì, sugli ultimi mercati della Juventus è difficile dire qualcosa a livello di scelte, qualcosa è stato sbagliato, tu prima hai citato Ogbonna, ma sono anche stati tanti colpi che sono stati piazzati, poi c'è questo paradosso, sbagliati quelli più costosi e azzeccati quelli a parametro zero giù di lì. Bravo, ma io ti faccio una domanda, ma secondo te Pirlo, Barzagli, Pogba, parliamo di questi che sono costati poco o niente, si poteva pensare che facessero quello che hanno fatto, o secondo te c'è la mano dell'allenatore in quello che hanno fatto? Credo ci sia sicuramente la mano di Conte, e credo che difatti nessuno cancelli i meriti di Conte, diverso è, però l'abbiamo inquadrato, sono dichiarazioni che fanno parte di un rapporto che andrà rivisto se dovrà continuare con la Juventus oppure andrà interrotto dopo questo terzo scudetto. Grazie Marco, un abbraccio. Ok, ciao. Grazie Marco Ansaldo, inviato della Stampa, ci sono già Patrick e Marco, 800 24 00 24, borsa. Se e quando qualcuno arriverà a poter mettere la seconda, ecco che noi anche ufficialmente potremo mettere la terza per rimarcare la differenza tra noi e gli altri. Tutti convocati. Vi ricordo il migliore in campo per il migliore intervento di oggi che vince la maglietta di tutti i convocati, poi c'è anche convocato per un giorno, dovete mandare il vostro messaggio registrato in MP3, 60 secondi, il tema di questa settimana è la vostra ricetta per salvare il calcio italiano, alcuni messaggi 349-238-6666, Conte non va bene per le coppe, bisognava cambiare già l'anno scorso, questo è Maurizio, poi c'è un amico che scrive per Tevez, la Juve deve ringraziare Barbara Berlusconi, Berlusconi, e poi ancora l'obiettivo della Juventus deve essere rimanere nelle prime otto d'Europa per tanti anni e non vincere sempre la Champions. Certamente vincere la Champions sarebbe anche un passo ulteriore, però partire dicendo alla fine della stagione precedente mi chiedono di vincere la Champions, l'aspettativa è questa, e sia chiaro che la Champions noi non possiamo vincerla, secondo me per l'allenatore di un club che si chiama Juventus è un discorso un po' riduttivo. Patrick dalla provincia di Macerata, Patrick non c'è. Marco da Roma, Marco ciao, buonasera, buon pomeriggio, prego. No, io volevo capire una cosa, fare una considerazione, una domanda. Mi sembra che qui non ci siano, l'unica regola è non avere regole. Ci sono delle immagini indiscutibili, credo, presumo, di una persona che sta parlando all'interno di un campo di calcio con delle persone che a lui non gli compete parlare. Secondo, la stessa persona, mezzo incappucciato ma riconoscibilissimo sempre da immagini televisive, che parla durante gli incidenti con una guardia in borghese, maglietta bianca, calvo e manganello, e parla e ci parla. Allora io volevo capire una cosa, cioè noi cosa ci dobbiamo aspettare dalle istituzioni? Noi a Roma subiamo uno stadio olimpico che per entrarci bisogna fare salti mortali, tornelli su tornelli, non entrano bottiglie di tappi di plastica, ma entrano poi tutto il resto. Si chiede alle società di calcio di contribuire, di partecipare, di fare qualcosa, ma la questura, la polizia, che cosa ci sta a fare? Ci sta a garantire l'ordine, così dice in Italia la normativa, all'esterno degli stadi, quindi anche all'esterno dell'Olimpico. Poi è del tutto evidente che qualcosa non ha funzionato sabato prima di Napoli-Fiorentina, è del tutto evidente che la versione che è stata fin qui raccontata credo non sia la versione definitiva. Adesso non si parla più del gesto isolato di un ultra impazzito, ma di un agguato, della presenza anche di altre persone. Anche qui credo che noi dobbiamo attendere e sperare un giorno di sapere davvero che cosa è successo sabato a Roma, e poi comunque ne parleremo, perché anche sulle varie misure che vengono promesse in questo momento c'è qualcosa da dire, perché molto in realtà è già presente nelle attuali leggi e nelle attuali normative. Vieri da Firenze. Sì, buonasera, Vieri. Grazie di avermi richiamato. Vieri, sì. Di nome o di cognome? Di nome. Vieri, nome, prego. Fiorentino. Allora, io ero uno di quei 28.000 circa fiorentini che era a Roma e volevo fare una considerazione su quello che è successo sabato e poi fare una considerazione sulla Fiorentina, diciamo, come squadra, come Dica. Calcio, e poi alla fine è giusto parlare anche di calcio. Allora, per quello che è successo a Roma, io sono andato in macchina e devo dire che la disorganizzazione per arrivare alla macchina come tifoso della Fiorentina allo Stadio Olimpia, questo benedetto piazzale Clodio, è stata allucinante. Io Roma la conosco abbastanza bene per lavoro, ci sono arrivato, però non c'era un cartello, non c'era niente, non c'era presenza di forze dell'ordine, non c'erano sia all'inizio della partita, sì, qualcosa non ha funzionato, evidente. Tra l'altro questo pomeriggio viene presentato il piano per la sicurezza futura all'esterno dello Stadio Olimpico in occasione delle manifestazioni sportive. Prego Vieri. Poi altra considerazione, io vado allo stadio dagli anni 70, ho 48 anni, ho visto di tutto, sono stato un ultra, per cui diciamo sono stato più volte perquisito dalla polizia e da carabinieri. Ecco, le perquisizioni che sono state fatte a Roma, non alla persona, oramai essendo vecchiarello non ti guardano più, ma zaini, borse, così, sono state irrilevanti rispetto a quelle che vengono fatte tutte le domeniche allo Stadio Franchi a Firenze, dove io vado abitualmente e dove andrò anche stasera. Terza considerazione, noi spettatori non sapevamo nulla, a un certo punto sono scomparsi tutti i cellulari, non so se questa è una cosa voluta o non voluta. Ultima considerazione su questo fatto, la sensazione che abbiamo in molti fiorentini è che se invece che vincere il Napoli vinceva la Fiorentina, noi non si sarebbe tornati a casa. No, io questo non credo, Vieri, io questo non credo sia vero, non credo ci sia stato da questo punto di vista un momento di pericolo legato al risultato del campo. C'è stato un momento di grandissima tensione, e poi lo ripeto, penso che la scelta a quel punto all'interno dello stadio di trovare, non vogliono chiamarla trattativa, la vogliono chiamare mediazione con la tifoseria del Napoli, anche con la tifoseria della Fiorentina, alla fine possa essere anche considerata una scelta di buon senso, perché così si fa l'ordine pubblico. Certamente una scelta devastante dal punto di vista dell'immagine, ed è quella poi che ha fatto il giro del mondo. Michele da Milano. Buongiorno, complimenti per la presentazione. Prego Michele. Io niente, volevo intervenire su Conte. Io tra l'altro sono milanista, per cui sono al di sopra di ogni sospetto. Per me è un grande allenatore, l'ha dimostrato anche sul campo, tra l'altro anche certificato da Sacchi, che Sacchi secondo me è una Bibbia vivente sul calcio. Ha vinto quello che nessun altro è mai riuscito a vincere in quella squadra, ha un potere contrattuale enorme e fa bene a trattare così con la Juve, perché gli devono mettere a disposizione una squadra che ha, diciamo che è impossibile vincere una. Sì, io non credo che abbia un potere contrattuale enorme oggi Conte. Con la Juventus ce l'aveva forse un anno fa e ha trattato tra l'altro un rinnovo al rialzo. Io non so che tipo di mercato possa avere oggi a livello europeo, se queste sono le sue ambizioni Conte. C'è chi parla del Monaco, ma non so se sarebbe un passo avanti rispetto alla Juventus. So che Conte probabilmente è un allenatore che deve ancora crescere anche dal punto di vista della tenuta nervosa prima di essere pronto per allenare una grandissima squadra a livello europeo, e quindi non credo che il suo potere contrattuale in questo momento sia elevatissimo con la Juventus. A proposito dell'andamento in Europa della Juventus, Andrea Agnelli. Ad inizio stagione sono circa un centinaio le squadre che entrano in Champions e in Europa League e solo due vincono. Parlare che le altre 98 squadre hanno tutte fallito è sbagliato, è assolutamente sbagliato. Io credo che la nostra stagione sia stata una stagione sportivamente parlando molto positiva, e di questo, ripeto, va dato tutto il merito possibile al mister, ai ragazzi, ai dirigenti, agli uomini e alle donne della Juventus. E questo è Agnelli sul giudizio che è stato dato in questa stagione alla Juventus e alle eliminazioni in Champions ed in Europa League. Fra un paio di minuti arriva Pierluigi Pardo. Vi faccio sentire prima la vedova di Raciti, Marisa Grasso, questa mattina a 24 mattina, ospite di Alessandro Milan. La notizia ve la ricordo: la questura di Napoli ha fatto sapere che non saranno tollerate le magliette speciale libero questa sera in occasione di Napoli-Cagliari. Magliette che gli ultras hanno minacciato di voler indossare in 30.000, pena la sospensione della partita. La vedova Raciti questa mattina a Radio 24. È una vergogna sentire anche questo. Dovrebbe una risposta il Presidente del Consiglio. Io non mi posso permettere, non sono nessuno, io mi chiamo semplicemente Marisa Grasso, non ho nessuna autorità. Non posso dire cosa deve fare lo Stato. Io mi aspetto una risposta, non devo rispondere io a questa gente. Cioè lei che tipo di risposta si aspetterebbe per essere soddisfatta, per dire lo Stato? Chiudete, non fate giocare, basta. Questa era la vedova Raciti. Saluto Nicola Roggero. Buongiorno a te gli ascoltatori. Ciao Nicola, beato te che sei immerso nel calcio inglese e non ti occupi di queste bassezze. Però ti sei occupato ieri del suicidio sportivo del Liverpool, della Istanbul. Poi sentiamo anche una bella copertina. Cos'è successo? È successo quelle cose che rendono, secondo me, esaltante lo sport. Ovviamente non la penseranno così i tifosi del Liverpool, che però sanno perfettamente come queste cose avvengono, a volte a danno e a volte a favore. Il Liverpool ha molto goduto a Istanbul, segnando tre gol in sei minuti e rovesciando una partita che sembrava segnata, e questa volta invece le cose sono andate in maniera diversa. Dico esaltante perché secondo me ieri sera sono accaduti una serie di avvenimenti, al di là della rimonta del Crystal Palace, meravigliosi dal punto di vista sportivo. Anzitutto questo Crystal Palace, che è stata la squadra rivelazione del torneo in Premier League, che era una formazione strasalva, undicesima, non può arrivare decima, non può diventare dodicesima, e ugualmente ha voluto dare il 101% per onorare lo sport. la seconda i ragazzi del Liverpool distrutti a fine partita, inseguono un sogno che i tifosi di Reds non assaporano da 24 anni, cioè la vittoria in campionato. Gerrard in lacrime, Suarez disperato, ed è stato bello rivedere Suarez in una dimensione umana, lui che insomma aveva fatto parlare sì per le sue qualità straordinarie tecniche, ma anche per alcuni episodi come le faccende di razzismo con Evra o il morso Ivanovic, ben poco edificanti. Invece ieri c'era questo pianto scrosciante che insomma non poteva non strappare la commozione. C'è stato l'allenatore del Liverpool che, sia pure nella delusione, ha avuto la freddezza di dire: noi dobbiamo, evidentemente abbiamo lavorato sodo, ma non abbiamo lavorato abbastanza, quindi dovremo cercare di tornare più forti il prossimo anno. E comunque complimenti al Crystal Palace, cioè si è ricordato di elogiare l'avversario. Io credo che veramente sia stata una serie di lezioni importanti che, a mio parere, per gli amanti del calcio dimostrano che evidentemente questo sport non è solo le faccende, per fortuna, di cui parlavate fino a poco fa, ma sono ben altre faccende. Sono contento di aver detto appunto questa cosa. È un momento crudele ed esaltante insieme, crudele per il Liverpool ma esaltante per lo sport. Sono stato contento perché Gary Lineker aveva postato più o meno la stessa cosa, cioè la cosa triste del calcio diventa anche la sua cosa bella. Quindi ieri sera abbiamo avuto veramente una grande lezione di cosa può essere lo sport a tutti i livelli, e sono contento di averla commentata. Spero che sia piaciuta molto anche a chi ha seguito la partita. Sì, è piaciuta a tutti, tranne che ai tifosi del Liverpool. Intanto saluto Pierre, ciao Pierluigi. Ciao ragazzi, come va? Benissimo. Tutti convocati. Again, he tries to go inside the defender and get the shot off. It's deflected, it's two. He gave them a warning moments ago. The goalkeeper pushed it under the post on that occasion, but this time, no thwarting Daniel Sturridge. But they're still after the title. They're after more goals here. Sterling, Suarez, it's three. And that was beautiful. In 2 minutes from the SAS combination, Sturridge and Suarez. It's Delaney. Oh, it's shot! Oh, it took a deflection off Johnson and it's in. Crystal Palace have one back. 78 minutes gone. Now Bolasie can run Liverpool beyond Johnson. Into the open spaces, Gale's up alongside him, Murray powering to get up to the far side of the penalty area. Bolasie needs to make up his mind. Gale, it's 2-3! Up it goes to Glenn Murray, with the chest on. Here's Gale! It's 3-3! Astonishing! Can this season provide any more thrills and spills? Nicola Ruggero, tifosi non del Liverpool hanno inventato l'hashtag Cristanbul su Twitter, si sono divertiti come dei matti. Il Tottenham sul suo profilo ufficiale ha pubblicato un tweet poi cancellato immediatamente dicendo: è stato doloroso ma estremamente divertente. Evidentemente sono rivali, poi l'ha cancellato chiedendo scusa. Sì, se l'ha fatto il sito ufficiale del Tottenham, è ovvio che non si può cadere in questa caduta di stile, chiedo scusa per il bisticcio di parole. Però resta il fatto, è stato un momento comunque esaltante per lo sport, perché insomma il Crystal Palace ha insegnato cosa vuol dire rispettare una maglia, rispettare i propri tifosi, rispettare la propria professione. L'allenatore Tony Pulis, a proposito, ragionevolmente sarà candidato ad essere manager dell'anno per quanto ha fatto con Crystal Palace, per aver salvato una squadra su cui nessuno avrebbe puntato una sterlina sulla sua permanenza in Premier. Aveva detto Tony Pulis: noi comunque abbiamo disperato bisogno di finire bene la stagione per salutare al meglio i nostri tifosi anche al termine di un campionato esaltante. L'ha fatto il Crystal Palace. Un'altra cosa tempo stesso poi capivano il punto di vista degli altri. Quindi sotto questo punto di vista è stata una strepitosa lezione. Aggiungo un particolare: Dwight Gale, l'uomo che con la sua doppietta ha fondato il Liverpool fino a 2 anni e mezzo fa, questo ragazzo faceva il carpentiere perché non si osava a lasciare il suo lavoro per una carriera professionistica che era in dubbio. A convincerlo del fatto che lui poteva essere un ottimo calciatore fu Darren Ferguson, il figlio di Sir Alex, che allenava il Peterborough, serie B inglese, che gli disse: no, guarda Dwight, lascia perdere, cazzuole, mattoni, hai le qualità per fare il calciatore. Esatto, fai il calciatore che ti conviene. Aveva ragione lui. Grazie Nicola. Grazie a voi, un saluto, saluto a Pier. Grazie Nicola Ruggero. Pier, io non so se ieri hai avuto tempo di seguire il Liverpool, è stata una serata da cuori forti. Ti leggo un messaggio che è arrivato: Conte come Ibra, tanti scudetti ma niente coppa con le grandi orecchie, questa è la mia profezia. Raffaele da Como, che idea ti sei fatto dello sfogo di Conte? In Italia in questo momento pensare di vincere la coppa con le grandi orecchie ce le vuole, quindi è una profezia abbastanza facile se Conte rimarrà in Italia. Poi ovviamente spero di sbagliarmi. Sì, abbiamo dei problemi a sentirti, Pier, proviamo a sistemare il collegamento. Poi io ricordo che magari il 24 maggio la vince l'Atletico Madrid, la Coppa dei Campioni. Alberto da Genova, Alberto. Ciao ragazzi, grazie per la convocazione. Prego. Dunque, brevissimo, io vi dico, secondo me dobbiamo anche stare un po' attenti a criticare sempre il nostro calcio. Io sono tifoso sampdoriano, sono andato a Brema, ahimè, ad assistere a una sconfitta, però è un'esperienza bellissima. E posso dirvi che il tifo seduto, che praticamente non partecipa attivamente alla partita, non è che sia una cosa molto bella, anche per un tifoso. Cioè, contrarissima alla violenza degli stadi, contrarissima a questo strapotere di alcuni ultras, ma si possono, come dire, affrontare a casa loro, andare a prendere perché tutti sanno dove sono. Ma un certo stile di vita allo stadio non va buttato via. Lo stadio non è un teatro, però bisogna darsi dei limiti. Evidentemente in Italia questi limiti sono stati superati da un po', e soprattutto da un po' vengono disegnate, scritte delle ricette che poi non vengono applicate in fondo, e quindi poi sull'onda dell'emozione si cercano ricette nuove. Francesco da Napoli, Francesco. Oh, salve, buonasera. Prego. Allora, io ero sabato lì a vedere la Coppa Italia. Personalmente non ho trovato scontri, non ho trovato tafferugli, non ho trovato nulla, ma a mio avviso che cosa è successo? A parte la disorganizzazione per tutelare le persone, cosa che era andata molto meglio 2 anni prima nella finale con la Juve, io quello che volevo sottolineare è che è un problema ancora dello Stato quello di non porre delle regole certe, ma a tutti i livelli. Cioè, il problema è la mancanza di certezza della pena. Cioè, il tutto è stato scatenato da una persona che si è arrogata il diritto di prendere una pistola e sparare un'altra. Ora, se fosse successo a parti invertite, si sarebbero sollevati i tifosi della Fiorentina, o i tifosi del Milan, o i tifosi della Lazio, o i tifosi della Roma, e creando disordine all'interno dello stadio, che è zona franca rispetto a un sistema penale che fa acqua a tutte le parti. Perché la persona che ha sparato, non so se è quello che è stato arrestato, se è stato lui, non lo so. Non lo saranno nemmeno loro, perché questa mattina c'è stata un po' poca chiarezza anche su chi abbia sparato. Quanto si farà di carcere effettivo? No, ma non si preoccupi che il carcere se lo farà chi ha sparato. Pier, poi sarebbe bellissimo smetterla di star qui a dire se fosse avvenuto a parti invertite, no, i tifosi della Fiorentina, della Roma, della Lazio. Non esistono parti invertite, esistono due squadre di calcio. Quella di chi vuole il bene di questo gioco e che vuole andare allo stadio e che vuole divertirsi, e quella di chi ha altri interessi, punto. Non è che ci sono, le squadre sono due, e tutte e due le squadre hanno rappresentanti in tutte le tifoserie d'Italia. Oggi la cosa più pericolosa è questa: la demonizzazione di Napoli, la demonizzazione di Roma, la demonizzazione di Firenze, di Torino, quello che contro quello. Mettiamo un punto, aspettiamo innanzitutto che le indagini finiscano, preghiamo per i ragazzi che sono in questo momento, preghiamo se uno vuole pregare, oppure insomma facciamo in bocca al lupo, a seconda che uno sia laico o religioso, perché comunque ci sono dei ragazzi che stanno male, soprattutto ovviamente questo ragazzo di Napoli, e poi aspettiamo i magistrati. E poi cerchiamo per una volta di mettere davvero un punto, ma abbiamo tempo per parlarne dopo il GR. Pier, stai lì, ti ritrovo. Difficile, se non impossibile, migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno. Lo dico molto sinceramente, a cuore aperto, in un mondo che poi, tra virgolette, non perdona niente. Se e quando qualcuno arriverà a poter mettere la seconda, ecco che noi anche ufficialmente potremo mettere la terza per rimarcare la differenza tra noi e gli altri. Non bisogna trattare con i facinorosi, ma questo è vero, deve essere vero anche per le società calcistiche e i loro presidenti. Finisce qui il primo tempo. Convocati. 800 24 00 24. Pierluigi, ciao, ci sei? Eccoci. Ci ha raggiunto Marco Belinazzo. Oh, ciao, buongiorno a tutti. Prestigioso collega del Sole 24 Ore, perché finalmente arrivano le multe per il fair play finanziario. Lo scrivono i francesi, lo scrivono gli inglesi. Io, finché non lo scrive Marco Belinazzo, non ci credo. Però non sono una carezza, pare. Per fortuna. Altrimenti, come dire, avremmo gettato al vento il lavoro di tanti anni, anche di chi racconta come il calcio debba intraprendere altre vie. Intanto però sono a Napoli davanti al Maschio Angioino in questo momento. Grande invidia. C'è un mare oggi che è pazzesco. Vuoi dire qualcosa di bello in Nazional Popolare? Sul Napoli. Ma il rischio è che dopo il casino dell'altro giorno, capito, per colpa di qualche pazzo da una parte e dall'altra, ci si divida. Vuoi dire qualcosa, Belinazzo? Di qualcosa da napoletano che vive a Milano. Manda un messaggio di pace al mondo, dai. Fatta questa premessa, diventa difficile dire qualsiasi cosa. Diciamo che quello che è successo ha rovinato un percorso bello che una squadra e una città stavano facendo. È stato tutto affrontato con la solita ipocrisia italiana. Spero, insomma, che i messaggi che arrivano in questo momento dalle più alte cariche dello Stato servano a ristabilire un po' di chiarezza e di calma, e soprattutto siano permessa per fare davvero qualcosa, ecco. Non è stato tanto Nazional Popolare, eh? Non mi viene in questo momento. Ha ragione. Allora, visto che ha parlato delle grandi cariche dello Stato, Pier, se vuoi ti faccio sentire il presidente napolitano e poi Renzi. Vai. E poi ne parliamo, Napolitano. Vai. Non bisogna trattare con i facinorosi, ma questo è vero, deve essere vero anche per le società calcistiche e i loro presidenti. Rompere i legami con questi aggregati che vengono chiamati tifoserie e che perfino esprimono dei loro presunti capi che si collocano nel mondo della criminalità e dell'illegalità. Pier, è la seconda volta che parla di calcio, Napolitano. Io mi ricordo, era già intervenuto dopo il calcione di Totti in finale di Coppa Italia a Balotelli, se ti ricordi. Guarda, l'altra sera, dalle 21:20 in poi, tutto ha funzionato. È chiaro che l'immagine simbolica, la maglietta, era inaccettabile. Ma dalle 21:20 in poi, con le notizie più disparate che giravano, col tifoso napoletano che non si sapeva come stava, con la dinamica dell'accaduto che non era, e con chi trattare, con le cheerleader? Cioè, c'è uno stadio con 60.000 persone dentro, c'è della gente che comunque, giusto o sbagliato che sia, sicuramente sbagliato, ha dei razzi e li lancia in campo. A quel punto tu devi minimizzare il rischio, ed è quello che è stato fatto. Quindi, se dal punto di vista dell'ordine pubblico, dalle ore 21:15 in poi, è stata fatta la cosa che andava fatta. Poi probabilmente, anzi sicuramente, non andava fatta davanti alle telecamere, non andava enfatizzata, andava fatta in maniera più privata. Bisognava dare questa informativa ai tifosi del Napoli e far capire che la dinamica era stata di un certo tipo, che il tifoso era già in ospedale, che c'erano già i medici che stavano lavorando, e giocare la partita. Questa è la verità, questo secondo me è quello che è stato fatto ed è una realtà. Sì, poi andrebbe anche fatta un'operazione di chiarezza su che cosa è successo veramente, perché do rapidamente le notizie. Perché ce le hanno chieste anche. Oggi c'è stato anche il giallo di chi ha sparato, e non è un dettaglio in tutta questa ricostruzione. Pare infatti che l'esame dello stab non abbia dato certezze. Si è detto a un certo punto che non ha sparato Daniele De Santis, che è il tifoso ultraromanista che è ricoverato in un ospedale, a questo punto segreto, perché è stato trasferito anche per motivi di sicurezza. Poi la questura ha fatto sapere che in realtà sono state trovate due particelle di polvere da sparo, mentre per la legge ne servono tre per dire che l'esame è stato positivo. Ho l'impressione che sarà un processo complicatissimo. Allora, quello che seguirà. Giovanni, noi giornalisti in questo momento, al fine di evitare il maggior numero di errori, su queste materie qui, secondo me dobbiamo fare la cronaca, certamente, e la raccontiamo. Però non prendere neanche delle strade troppo fideistiche, nel senso che comunque alla fine hanno bisogno di giorni per fare tutte le analisi, le facessero, i magistrati facciano il loro lavoro, la speranza è che i ragazzi si riprendano e poi chi dovrà pagherà. Questa è la sostanza. Evitiamo le criminalizzazioni nel mucchio, non facciamo tutta il buon fare, non criminalizziamo le città e facciamo cronaca su quello che, secondo me, su quello che succede. Cerchiamo magari anche di foto giuste, visto che per un giorno e mezzo questo tifoso della Roma è stato scambiato per un altro da tanti giornali, è un errore che hanno fatto altri, li potevo fare anch'io, tu non è perfetto, io sono scarsissimo, sono bollito, quindi non è un fatto. Però voglio dire attenzione, perché tutti abbiamo una responsabilità, noi giornalisti, enorme in queste ore. Poi cerchiamo di costruire un calcio migliore. Calcio migliore si costruisce, secondo me, con un mix di regole certe. Se volete chiamarle depressione, chiamatele depressione, ma semplicemente sono regole certe, perché poi alla fine, insomma, basta applicare. Sì, magari basterebbe applicare quelle che ci sono. Io su questo sono abbastanza un talebano, perché le regole ci sono, ci sono anche quelle che ci stanno raccontando adesso, il DASPO a vita, il DASPO preventivo, tutta roba che esiste già. Marco. Io sono, diciamo, particolarmente triste per questa vicenda, perché 7 anni fa io ero esattamente in questo studio. Ho iniziato a occuparmi di queste materie perché ho seguito l'iter di approvazione della nuova legge sulla sicurezza negli stati dopo l'omicidio di Filippo Raciti. Ecco, in quel periodo ricordo delle baggianate dette da chi se ne stava occupando a livello politico. Mi ricordo, per esempio, c'era un deputato della Lega che voleva dotare gli steward di pistola, tanto per dire come poi l'incapacità e l'inadeguatezza ad affrontare queste materie diventa determinante. Io credo che Pier sia importante anche fare, come dire, un'analisi di quello che è accaduto anche a livello strutturale, perché se fossimo in un paese civile, in un paese in cui le cose funzionano, in cui gli stadi sono moderni, al di là di essere di proprietà o meno, tu non puoi parcheggiare a 3 km di distanza, fare un percorso in cui nemmeno l'esercito può bonificare, presidiare ogni singola via. È chiaro che, per esempio, se uno stadio è moderno e funzionale, c'è un sistema di connessione di banda larga per cui quelle notizie arrivano e non tieni 60.000 persone ostaggio. È capitato anche sabato sera che tante persone sono state pressate ai cancelli, avevano i biglietti, sono stati strappati da mano, magari anche dalla stessa tifoseria, perché c'erano poi gli steward che si sono ritirati perché sono ragazzi che a loro volta vengono pagati poche decine di euro e non possono essere lì a prendere gli schiaffi. Quindi anche dire deve pagare il club per garantire la sicurezza diventa poi una forma di populismo se non si conoscono bene i fatti. Steward, che ricordo, in questo momento sono già dentro lo stadio, la polizia è fuori, in linea di massima poi interviene se necessario, come ad esempio è accaduto sabato sera. Questo anche per spiegare, ad esempio, che io ritengo quello che ha detto ieri il presidente del Consiglio Renzi abbastanza fuori dalla realtà. Lo sentiamo a proposito dei club che devono pagare la sicurezza. Io non voglio che i cittadini debbano pagare il costo dell'ordine pubblico nemmeno dal punto di vista economico. Le società che spendono tanto, investono tanto per i giocatori, bene, ma le società dovranno anche prendersi cura dell'ordine pubblico, del pagamento dell'ordine pubblico. Ecco, ricordo che le società di calcio versano ogni anno 1 miliardo di euro in tasse, avranno 1000 difetti, ma dico, Pier, tu la volante che passa sotto casa tua, se permetti, non ti viene fatta la fattura per pagare. No, la paghi con le tue tasse. La volante no, ma voglio dire, la volante in mezzo a Piazza del Popolo quando c'è una partita con 5.000 tifosi stranieri che arrivano a giocare contro la Roma, contro Lazio, chiaramente non la pago io. Però un servizio d'ordine che è all'interno dello stadio, delle immediate vicinanze, possa farsi carico. Ma poi il discorso non ma il servizio d'ordine esiste, poi gli steward vanno resi professionisti, per ma carità. Il discorso, guarda, adesso, ma ci manca che bisogna pagare la polizia. Ci manca che bisogna pagare la polizia. Ma il discorso che ha fatto Renzi ieri sera, per esempio, a Tiki-Taka, è un discorso molto generico sul quale essenzialmente lui dice: fidatevi di me, perché dal 25 maggio in poi, quando sarà finita la campagna elettorale, sarà finito il campionato, ci penso io. Quindi se poi ha fatto ripetere, gli si può credere o gli si può non credere. Poi tra 2 mesi siamo qua, non è che se facciamo finta che ci siamo dimenticati. Spero che, insomma, andremo in onda e faremo una verifica di tutto questo. Ma il meccanismo non è tanto il costo degli straordinari dei servizi di polizia, è più un meccanismo di coinvolgimento. Cioè Renzi ti dice: io voglio che le società sentano di non essere così, diciamo, un soggetto estraneo a tutta la vicenda dell'ordine pubblico negli stadi. Io penso che le società anche economicamente vadano coinvolte, perché saranno responsabili di quello che succede. Lo sono già, lo sono fin troppe, perché sono addirittura oggetto di ricatto proprio perché sono responsabile oggettivamente della sicurezza. Cioè, io credo che il problema a questo punto sia davvero di conoscere le regole e di applicarle. Cioè, i biglietti nominativi, facciamo l'esempio dei biglietti nominativi. Tu negli stati inglesi hai i posti assegnati, biglietti nominativi, quindi se ti muovi, se sgarri, se lanci una cosa, sanno chi sei e ti vengono a prendere, a parte che ti prendono in quel momento. In Italia hai fino a 48 ore per essere preso, per essere sanzionato e per essere allontanato per anni dallo stadio. Tu prova, assolutamente, tu prova oggi ad andare in uno stadio con il tuo biglietto, con il tuo posto, non so in quali stadi si rispettino le... Sì, soprattutto in alcuni settori, soprattutto nelle curve. In Inghilterra, dove c'è stata la famosa legge che oggi ho letto in alcuni giornali, ha funzionato in 15 giorni, il lavoro principale è stato un lavoro di intelligence, non è stato un lavoro strutturale. Poi sono arrivati gli stati nuovi che sicuramente aiutano. Ieri Renzi a Tiki-Taka, dal tifoso della Fiorentina, ha riconosciuto che lo stadio più all'avanguardia d'Italia in questo momento è quello della Juve, perché è quello più facilmente monitorabile, quello video sorvegliato. Sì, quello dove poi entrano due striscioni, uno forse stampato dalla società che dice una cosa e quello sopra degli ultras che dice forse il contrario. Io anche questo l'ho trovato un aspetto surreale, quello che è successo ieri sera sulle vicende di Superga. Mughini è stato durissimo sullo striscione sopra. Io ti dico che... Per carità, non era offensivo lo striscione sopra, no, il problema è che era una controprovocazione. Sono d'accordo, io che sono ottimista di natura e penso che ci sia, all'ottimismo non ci sia un'alternativa, nel senso che o ci andiamo a suicidare tutti, ci scegliamo un posto e un altro paese dove migrare, oppure viviamo in questo, e se gli vogliamo bene abbiamo il dovere dell'ottimismo. Allora io credo che ieri lo striscione, quello sotto della curva della Juve, che fino a prova contraria è stato messo da quelli del primo anello dei tifosi della Juve, fosse uno striscione meraviglioso. Onore ai morti di Superga, che dopo tante polemiche è una roba di civiltà. Quello sopra, che era rispetto per tutte, era rispetto le vittime, per tutti, onore solo per le vittime bianconere, era almeno un passo avanti, se vogliamo essere ottimisti. Diciamo che rispetto a quello che abbiamo sentito ultimamente, io adesso non voglio accontentarmi di un pareggio in casa contro una neopromossa, però rispetto ai cori contro Superga, ieri sera la curva della Juve ha partorito due striscioni, uno bellissimo, uno polemico con quegli altri, ma comunque migliore di quello che si è sentito prima. Quindi, sono ottimista, penso che sia un passo avanti. Però la foto insieme era una foto, dai Pier, diciamo la verità, surreale. Ti faccio sentire surreale, il presidente Lotito questa mattina, Mix 24. Lotito, sui fatti di sabato. Beh, io ho eliminato il dialogo, il cosiddetto dialogo. L'ho rotto, ho detto, non assumendo una posizione chiara di ruoli, di distinzione di ruoli. Ognuno deve fare il proprio. Se vuol fare il tifoso, il tifoso non può essere una professione. Cioè, non è che sulla carta d'identità ci sta scritto professione e tifoso. Sì. Il tifoso significa appassionato, deve sostenere la propria squadra del cuore, la deve chiaramente supportare, nel rispetto delle regole. Ecco, lei che prezzo. Nel momento in cui il tifoso vuole sostituire il ruolo della società, ossia vuole condizionare e coercire la volontà della società nelle libere scelte, nel libero arbitrio, questo vale non solo per la società ma per chiunque, è chiaro che questo non va bene. Non va fatto. E poi ti faccio sentire sempre Lotito, che cosa avrebbe fatto se qualcuno avesse chiesto al suo capitano di andare sotto la curva? Lei, se avesse visto un suo giocatore andare a trattare in curva con Genio Carogna, cosa avrebbe fatto? Non l'avrei consentito. E invece Della Valle sullo stesso tema. Avrebbe fatto la stessa cosa, avrebbe mandato Pasquale, il suo capitano, a parlare con il Facinoroso. Cioè è stato giusto alla fine parlare. Intanto io le posso dire, ma parlo per noi, e questo non vuol dire che vogliamo metterci in cattedra nei confronti di nessuno. No, certamente no, noi abbiamo sempre chiarito che la società va per la sua strada, rispetta tutti, ma è la società che decide, e la società soprattutto che non si fa, diciamo così, mettere paletti da nessuno. Ma a Firenze questo non è servito. Quindi c'è stato Pasquale un momento a colloquio con Genia Carogna a Fiorentina non l'avrebbe mandato, insomma. Certamente non l'avremmo mandato noi, non c'è dubbio. Ti posso dire, Pier, che c'è anche un po' di ipocrisia, perché in realtà i giocatori di tutte le squadre parlano con i capi ultra di tutte le curve. Io ribadisco che l'altra sera lo schifo, la vergogna, la stortura sta nel fatto che ci sia stato un agguato nei confronti di alcuni tifosi e che ci fossero degli altri tifosi con un armamentario di guerra. Questa è la vergogna. Quello che è successo, io ero all'Olimpico, quello che è successo dalle 21:10 in poi in una situazione surreale in cui si tem la vita di questo tifoso, in cui c'era il problema di che cosa sarebbe successo con 60.000 persone arrabbiate, con delle notizie frammentarie che arrivavano, la gestione dell'ordine pubblico, secondo me, ripeto, dalle 21.10 in poi, quindi da quando abbiamo assistito a quel dialogo, è stata una, ma lo dico, l'ha detto ieri sera Carlo Bonini, che è uno dei più grandi esperti di dinamiche giornalista di Repubblica, la minimizzazione del rischio. Cioè tu sei in una situazione complicata e in quel momento lì ci sono delle persone, delle forze di polizia che parlano con delle persone della curva, dei manifestanti, del servizio d'ordine e cercano di minimizzare i problemi. Poi si può discutere, certamente io spero che fra un anno, fra due anni, fra cinque anni noi avremo delle finali di Coppa Italia dove non ci sarà la gente, non ci sarà più la necessità di parlare anche con il capultra per minimizzare il danno, perché poi alla fine il problema era quello del dire io, la scena è stata umiliante, la maglietta è stata umiliante, vedere in quel momento lì come ha riconosciuto, non faccio una colpa, in quel momento il bordocampista Rai che ha fatto assolutamente doveva semplicemente, ma ha fatto cronaca, ha fatto cronaca e secondo me i fatti gli stanno dando poi ragione, è andata vita, come l'ha raccontata. Ci sono un paio di amici, Pier, Carlo da Palermo. Carlo, sì, pronto, ciao. Ciao, prego. So che mi tirerò addosso tante email e tante telefonate contro. Tutto questo chiacchierare di quello che è successo sabato non si fa altro che enfatizzare. Io premesso che non farò i nomi di quell'idiota della maglietta, pertanto il parlarne, il voler cercare anche da parte del Presidente del Consiglio, estremizzo il concetto, un mafioso se ti vuole ammazzare non ti avviso il giorno prima, guarda che domani vengo ad ammazzarti, allora ci sono le leggi, applichiamole. Per quanto riguarda il signor Arracidi, enfatizzare il discorso della maglietta nei confronti del marito, io non penso che un magistrato per aver indossato, perché un idiota indossa una maglietta, rivede il processo. Questo ragazzo è stato condannato, sarà in galera, ci saranno tanti idioti che emuleranno quest'altro idiota di Napoli, pertanto direi 30.000 magliette, no, io ne farei 40, il ricavato lo darei alla famiglia Arracidi. Cioè, smettiamola di far sì che questi idioti possano avere visibilità. Sì, è sempre un problema dei simboli, per carità, possiamo anche non parlarne, Marco Bellinazzo, Pierluigi Pardo, noi possiamo scegliere di parlare del rigore di Lazio Verona da domani, di parlare di Fiorentina Sassuolo di questa sera, possiamo fare quello che vogliamo, e poi quell'immagine ha fatto il giro del mondo e secondo me è anche giusto parlarne. William da Venezia. Perfetto, pronto? Perfetto. Prego. Posso chiedere una cortesia? Sì. 4 giorni che si parla di questa situazione, sì, della Coppa Italia. Okay. Se il tifoso, cioè chi è andato a parlare con la curva, giusto? Sì. Dirigenti, polizia, AMSIC, giusto? Se aveva questa maglietta poteva spostarlo e parlare con uno che aveva la maglietta con scritto Viva Padre Pio, giusto? Sì, a trovarlo. Due, se aveva la maglietta con scritto Padre Pio non succedeva niente? Quello che voglio dire io è una domanda per la prossima. No, non andava nemmeno con la maglietta Viva Padre Pio da un certo punto di vista. Però diciamo che la maglietta ha aggiunto il carico da 90. Ma chi è che è andato? Cioè, erano in 7-8 con AMSI che lo accompagnavano a parlare con un deficiente con una maglietta, giusto? Potevano dirgli vai via, parliamo con un altro. E non perché lo so, hanno Pier, potevano. Capisci? Ma no, ma in quel momento il responsabile della sicurezza, che discorso che può sembrare assurdo, ma il responsabile della sicurezza di fatto della curva era quel signore lì. Ma io voglio dire questo, adesso noi dobbiamo mettere un punto, quello che ha detto ieri Renzi, giusto o sbagliato che sia, poi lo verificheremo, è mettiamo un punto. Abbiamo detto 57 sì, volte. Sì, l'abbiamo detto nel 2002, cosa. Nel 2003, okay. Nel diciamolo 2007, nel 2008, nel 2010. Se non lo diciamo, ripeto, no, ci sono per carità. Le alternative sono il suicidio, l'emigrazione, il baretto a Formentera, andiamo tutti a Formentera, ci trasferiamo, lasciamo il suo paese. Beh, non è male come alternativa, No, fra l'altro non è male. Intanto ti svelo che Marco Bellinazzo aveva tradito il Napoli per un quarto d'ora, sabato sera per un'orata alla griglia. Ma se ti racconto la mia serata di sabato, io sabato sono arrivato allo stadio, ero a casa di mia amica a 5 minuti allo stadio, sono arrivato con un mio amico, sono entrato alle 9.01 allo stadio, la partita è sospesa, che facciamo? Vabbè, mi riappoggio un attimo a casa, sono arrivato, c'era la gricia appena scolata e lì devo chiederti perdono a tutti, ho tradito clamorosamente. Volevo tornare, mi è dispiaciuto non tornare. Quando la partita è ricominciata mi è venuto anche il nervoso, però insomma la gricia è la gricia, ragazzi miei. E poi per un dovere di ospitalità a quel punto la partita l'ho vista in televisione, ho visto tutte quelle scene. E ti dico la verità, io penso che oggi la cosa fondamentale sia non dividerci, non cadere alle provocazioni di chi ci vuol dividere. Quello che è venuto fuori l'altro giorno, che sta venendo fuori, è che se anche non è stato da solo questo tifoso della Roma, ma anche qui aspettiamo la ricostruzione, erano 3-4. Sì, aspettiamo. Adesso, con calma che ci diano una ricostruzione diciamo credibile. Napoli e Napoli-Roma, viverlo in assetto da guerra, perché 3-4 persone irresponsabili hanno fatto questa cosa. Adesso gira su internet il punto di vista del tifoso di una scuola del nord che augura la morte a questo ragazzo di Napoli, non si augura la morte. Sì, a ma queste sono follie, Piero. Sono derive. Siccome io, grazie a Dio, giro l'Italia da nord a sud e vedo che poi, al di là di tanti discorsi, di tanta conflittualità, di tanti problemi, di tanti rodimenti che esistono, che ci fanno star male e che provocano conflittualità, però alla fine non è che questo è un paese di gente che si farebbe la guerra civile l'uno con l'altro. Bisogna che le forze, che tutti quelli che vogliono unire le persone, riescano ad avere la meglio su chi le vuole dividere. Il concetto è molto semplice. Chiaramente adesso è arrivato un momento in cui bisogna cambiare le regole. Ci hanno provato 25 governi, adesso abbiamo un premier nuovo, che oltretutto... Sì, bisogna cambiarle e cercare di applicarle. Io aggiungo, Pier, perché ne abbiamo scritto e ne abbiamo viste. Pier, teniamo convocatissimo Marco Bellinazzo, perché dobbiamo parlare di ste benedette multe per il fair play finanziario. Borsa, torniamo. Ma io allibisco. Io avevo visto con grande gioia durante la partita, avevo visto quel cartello che deve essere immancabile nell'anima di ogni italiano: onore ai caduti di Superga, che appartengono a tutti e 60 i milioni di italiani, quei magnifici campioni del Torino. Onore ai caduti. Vedere sopra quel manifesto da imbecilli che ci sono caduti bianconeri e caduti di un altro colore. Allibisco. Poi c'era un problema. Muoio. Tutti convocati. Allora, parliamo un po' di questo fair play finanziario, perché stanno arrivando, Marco Bellinazzo, finalmente le multe. Manchester City e Paris Saint-Germain le prime due vittime. Non è l'esclusione che in tanti avevano paventato, però non è neanche una carezza. Beh, entro la fine della settimana sono annunciate le sanzioni, in particolare per 9 club. Ovviamente i primi due a essere oggetto degli strali della UEFA sono Paris Saint-Germain e City, e stanno uscendo insomma queste indiscrezioni su quali potrebbero essere le sanzioni. Devo dire che in un primo momento, io ne avevo scritto un paio di mesi fa, la sanzione era molto blanda, che era questa della riduzione della rosa, in particolare per il Paris Saint-Germain. Dopodiché ovviamente c'è stata la ribellione dei grandi club a partire dal Bayern Monaco, e la UEFA ha un po' rivisto l'impianto delle conseguenze, diciamo, amministrative, che sono comunque importanti. Non sono l'esclusione, che ricordiamo è al vertice, no, delle sanzioni che si possono infliggere, ma prevedono insomma delle multe, nel caso del City si parla di una multa di 60 milioni circa. Peraltro ci sarebbe, insomma, se fosse così, sono diversi giornali, sono francesi e inglesi, che stanno dando la notizia, sarebbe una fregatura per il City, che in qualche modo è stato più onesto del Paris Saint-Germain, perché il City ha accumulato e dichiarato perdite per quasi 200 milioni nei due anni di osservazione, nei primi due anni insomma, di osservazione da parte degli organi contabili di Nyon, mentre il Paris Saint-Germain ha nascosto le perdite, sono di una quindicina di milioni nei due anni, con queste famose ormai sponsorizzazioni farlocche. Sì, ha tentato un po' di mischiare le carte. Esattamente. E paradossalmente si trova però con sanzioni in qualche modo meno gravi, se saranno confermate quelle appunto oggetto di indiscrezione. Secondo te, Pier, se davvero nei prossimi giorni avremo la conferma di questo impianto di sanzioni, ha vinto Platini, fa da deterrente anche in futuro? Cioè, volente o nolente, i club dovranno imparare a risparmiare, a tagliare. Pier, c'è qualche problema a collegarsi? Io aggiungo un'osservazione. Cioè, i club non devono imparare a risparmiare, i club devono imparare a fare utili, perché come dimostrano gli esempi virtuosi, con una certa gestione del calcio o del business legato al mondo del calcio si può fare anche utile, e quindi rendere le società autonome. In fondo è questo il principio del play finanziario. Noi in Italia lo abbiamo applicato, come se, come anche insomma è accaduto in ambito nazionale, insomma quindi al di fuori del calcio, nella versione diciamo di austerity soltanto, quindi taglio, spending review, riduzione, perché sì, c'è chi invece è stato capace di costruirsi un nuovo modello di business. Mi chiedo se da subito, dall'estate prossima, se lo chiedono in tanti, ad esempio, cambieranno le strategie del Paris Saint Germain, se lo chiedono i tifosi della Juventus ad esempio. Chiaro. Perché c'è in ballo la cessione di Pogba. Sì, tra l'altro non so se è un caso, ma l'Equipe appunto scritto che una delle sanzioni per il Paris Saint Germain sarebbe quella di poter acquistare fino a un massimo di 60 milioni, quindi più o meno l'offerta per, sì, Pogba, più o meno l'offerta per Pogba, unico acquisto. Pier, ci credi? Io ci credo. Beninazzo, Napoli è stupenda, ma è piena di gallerie, qua è tangenziale, camerarina continuamente. Ce ne sono due, non so in quale direzione stai andando, insomma, ma due ce ne sono, Pier. Sto quasi al vomero, no, io parlo della tangenziale. No, assolutamente sì, prima non so se mi avete sentito, è chiaro che affinché il fair play finanziario non diventi una di quelle cose tipo il punto sono, no? Quelle cose di cui si parla, ma che alla fine, oppure il ranking UEFA, quelle cose un po' astratte, anche se poi ranking UEFA sappiamo che sì, è molto concreto, altro che astratto. Sì, però sai, poi nel momento nel quale c'è da fare una nemica della tua, alla fine, ma giustamente, insomma, ognuno fa come gli pare. Io credo che qualcosa debba succedere e mi sembra che siamo sulla strada, insomma, mi sembra che siamo sulla strada giusta. Insomma, aspettarsi rivoluzioni sarebbe clamoroso. Preferisco una sana serie di sanzioni però continue, progressive, tipo goccia cinese, nel senso che poi alla fine la ratio del fair play finanziario è quella di migliorare il gioco, non è che nasce da un desiderio di Platini di bloccare gli investimenti sul calcio, nasce da un desiderio di sostanziale equilibrio, che è un po' simile al meccanismo del draft dell'NBA, no? L'idea che comunque si debba cercare a fine stagione di equilibrare le cose nei limiti del possibile per poter garantire un certo livello di spettacolo. Evidente che se c'è troppa sproporzione tra due o tre squadre che sono troppo forti e tutto il resto del mondo, non ci si diverte più. Quindi chiunque si occupa di entertainment, cioè di intrattenimento, si sa che l'equilibrio legato, è un valore, è un valore che va mantenuto. Io vado a una partita perché non so come finirà, poi magari possa avere un sospetto che il Napoli possa battere il Cagliari, che la Fiorentina possa battere il Sassuolo, però devo sapere che è possibile la sorpresa, altrimenti non ci vado più. Quindi lo sport vive di questa logica, il finanziario secondo me rientra in questo, in questo tipo di ragionamento. Io immagino che Manchester City e Paris Saint Germain faranno tutti i ricorsi possibili, quindi questo è il punto di partenza. Spesso nelle sanzioni amministrative e economiche, diciamo la verità, Marco Belinazzo, questo vale anche in altri campi, si parte da 100 per arrivare a una sanzione intermedia che alla fine è una sorta di patteggiamento tra chi viene sanzionato e l'istituzione che eroga questa multa, però bisogna dire che il segnale è abbastanza forte. Beh, doveva arrivare, guarda, io mi auguravo che arrivasse, e ripeto, dobbiamo aspettare insomma quello che sarà poi il sistema finale, no? L'ufficializzazione delle sanzioni e soprattutto l'elenco dei 9 club oggetto di queste prime sanzioni, ma c'è un impianto insomma messo in piedi da alcuni anni, molte società lo hanno rispettato, alcune perché ci credono, altre perché hanno trovato insomma un ottimo alibi nel momento in cui le risorse scarseggiavano. L'obiettivo, ripeto, è creare un modello di business che permette anche di fare utili con il calcio, ed è possibile farlo. Nei 9 club non ci sono club italiani quest'anno? Non ci sono club italiani, insomma, anche se l'Inter ha rischiato insomma di finirci, forse qualcosa ci sarà per l'Inter, insomma, aspettiamo. Insomma. Potrà esserci invece magari qualche problema l'anno prossimo, c'è la Roma che rientra nel giro delle coppe, che non ha dei conti dal punto di vista del fair play finanziario in perfetto ordine, però insomma facciamo un passo per volta, aspettiamo che queste sanzioni diventino ufficiali, aspettiamo l'esito dei ricorsi, dei controricorsi, però il segnale mi sembra chiaro e finalmente coerente. Vi rubo ancora solo 2 minuti. Alessio da Torino. Alessio. Sì, pronto. Prego. Volevo fare una considerazione rispetto al mercato della Juventus del prossimo anno e anche delle perplessità di Conte, che dal mio punto di vista sono relative alla rosa attuale, e gli si chiede un cambio di modulo, un po' anche l'opinione generale in Italia, però i giocatori che attualmente sono stati valorizzati proprio dal 3-5-2, penso ad esempio a Bonucci, che è un ottimo regista a 3, ma nella difesa a 4 dimostrato di avere dei limiti. E poi lo stesso Pirlo e Vidal trovo che siano nel ruolo perfetto con un centrocampo a 5. Questo potrebbe voler dire che l'anno prossimo o cambiano dei ruoli giocatori cardine, ovviamente non sarà Pirlo perché la sua intelligenza... Sì, Pirlo è rinnovato, secondo me non sarà nemmeno Vidal, però evidentemente andrà fatta anche una campagna mirata, Pier. Assolutamente, la Juve deve cambiare delle cose sicuramente, anche se poi quest'anno non è stata fortunata. Io credo che poi il calcio, a differenza di altri sport, vive anche di casualità e di episodi, questo non va mai dimenticato. Però insomma, sicuramente la Juve può essere tentata da una strada che è quella della cessione di un giocatore importantissimo per la costruzione di un progetto ancora migliore. Non va mai dimenticato che nel calcio di oggi vendere bene è importante quanto comprare bene. Ma io credo, Pier, che se davvero arriva un'offerta da 40, 50, 60 milioni veri, ma anche 40 veri per Pogba, la Juve ha il diritto e il dovere di farlo e anche di spiegarlo a Conte, perché poi con quei soldi tu vai a reinvestire, vai a costruire la squadra, l'importante è reinvestirli, però secondo me questa è una scelta che un club deve avere il diritto di fare, soprattutto nelle condizioni del calcio italiano. Guarda, no, ma credo nelle condizioni di qualunque calcio. Sì, però da noi in maniera particolare. Io credo che oggi vedi, i due argomenti che abbiamo affrontato si trovano la loro saldatura, perché se uno non vuole comportarsi bene e gli viene dal cuore, lo facesse perché il calcio italiano sta diventando una monneccia, ragazzi miei. Il discorso che ha fatto Montella l'altro giorno è un discorso giusto, le immagini hanno fatto il giro del mondo. Adesso è chiaro che la Lega cerca di ottenere il massimo dei soldi possibili, ma questo è un prodotto che negli ultimi anni si è depauperato in maniera incredibile. Invece noi dobbiamo creare valore aggiunto, dobbiamo tornare a essere anche dal punto di vista economico un calcio che domina, e questo lo si fa attraverso valore. Benignazzo è il professore da questo punto di vista, quindi stadi di proprietà, merchandising, lotta a tutto ciò che è contraffazione, lotta alla violenza negli stadi. La violenza negli stadi ci toglie opportunità. Quelle immagini dell'altro giorno hanno fatto il giro del mondo. Sì, sono state una cattiva pubblicità. No, poi, secondo me in questa ricetta c'è anche che se tu hai un giocatore preso a zero e ti offrono 50 milioni che sono tutta plusvalenza, lo vendi. Attività economica imprenditoriale farebbe un affare da 50 milioni di euro, e non vedo perché non debba farlo un club, anche perché le bandiere non esistono più. Se non è quest'anno, è l'anno prossimo, fra due anni. Chi non ha venduto? Mi viene in mente l'Inter con Adriano, poi se n'è pentito, perché poi dopo i giocatori li paghi anche quando non rendono più, come il giorno in cui ti offrivano 50 milioni. Pier, ti saluto, domani torna Carlo Genta. Ciao ragazzi, ciao. Pier, Marco, è un discorso che secondo me anche Conte dovrà imparare. Insomma, l'anno scorso lui si è lamentato che gli hanno venduto Matri e Giaccherini. In fondo il Napoli è vero che ha speso molto, però in due anni ha venduto Cavani e Lavezzi. E aggiungo Quagliarella ancora l'anno prima, magari l'anno prossimo sarà Amsic. Ma il problema è appunto questo: riuscire a valorizzare la propria rosa, prendere giovani importanti, venderli bene all'estero, con quei soldi però ricostruire. Ma ricostruire non solo la rosa, ma nel caso per esempio del Napoli sarebbe importante anche costruire le infrastrutture come di altre società, pensare quindi anche a un progetto lungo di valorizzazione della squadra, della società, delle infrastrutture, per creare un calcio migliore, condizioni migliori in cui fatti come quelli che purtroppo stiamo raccontando in questi giorni non si verificano più. Ciao Marco, grazie, alla prossima. A presto, ciao Giovanni. Tutti convocati. Sara Tardelli, ciao. Eccomi Giovanni, ciao. Hai sentito che temi oggi, violenza, sì. Fair play finanziario, Conte che non sa se il progetto della Juve gli interessa o no. Dio, proprio gli interessa o no, giustamente lui ha detto una cosa semplice ma efficace: quando ti siedi in un ristorante che costa 100 euro non puoi mangiare con 10 euro. Sì, io se fossi il presidente della Juventus avrei qualcosa da obiettare sui 10 euro, perché non mi sembra che la Juventus relativo, sia una società dai. Con le pezze lì. È tutto relativo, se la paragoniamo agli altri club che se la giocano in Europa, un pochino sì, dai, c'ha ragione Conte. Sì, pensa che smacco se il 24 maggio quella coppa lì con le grandi orecchie poi l'alza l'Atletico Madrid, che fattura meno della metà del Milan, della Juventus, di tutte le altre. Noi prendiamo tutti questi bei discorsi, io, Marco Bellinazzo, Carlo Genta, te, e facciamo una bella pallottola e li buttiamo via, perché poi il calcio è bello perché si gioca 11 contro 11 in campo, c'è un pallone che rotola, eccetera, eccetera, eccetera. Settimana difficile però, Sara, ci aiuti un po' ad alleggerirla. Sì, vi aiuto ad alleggerirla, perché in quanto quota rosa mi è venuta in mente una cosa. Ho detto, eppure c'è una nazionale di calcio e anche un calcio che non crea polemiche, che gioca e basta per il gusto di giocare, ed è la nazionale di calcio femminile. Allora, che tra l'altro da noi conoscono poco, ma ci sono paesi, soprattutto nel nord Europa, dove sono seguitissime. Anche in America, in Canada, sì sì, ma anche in Spagna per esempio. Sentite cosa ci ha detto Antonio Cabrini. Antonio Cabrini, campione del mondo nell'82 con la Juventus, hai vinto tutto, ma quante coppe hai a casa? Ho le coppe in formato mignon. E quante sono? Non lo sai? No, sono diverse, 6 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale, quindi su quanto sono? 12. Sì, esatto, siamo lì, siamo esattamente non lì. Male. Non male come palmarès. Di Bell'Antonio in Italia ne abbiamo avuti 2. Uno è Marcello Mastroianni e poi ci sei tu. Eravamo tutte pazze di te, lo sai? È stato il grande Gianni Brera ad appiopparmi da questo pseudonimo. Non mi è mai piaciuto, però ho dovuto convivere con questo appellativo. E perché non ti piaceva? Ho sempre considerato una presa in giro e un qualcosa che non rispecchiava il mio modo di essere. Ti facevano vanitoso e non lo eri? Ma più che vanitoso non mi riconoscevo, ecco, perché era un discorso soltanto di estetico, quindi a me non interessava questa cosa. Giocando a calcio non mi piaceva, ecco. Cabrini, per vincere i mondiali l'Italia ha sempre avuto bisogno della stampa contro. Prandelli troverà anche lui un modo per farsi trattare male dai giornalisti pur di vincere? Ma sicuramente ci sarà una parte di stampa che è con lui, l'altra parte con di lui. Però questo ha sempre caratterizzato un po' i mondiali dell'Italia quando è stata vincente. Se fosse così, beh, mi verrebbe da dire diciamo nei tutti i colori su Prandelli. Proprio tu, idolo delle donne, sei il CT della nazionale femminile di calcio. Che colpo! È un po' quando mi è stato proposto questo incarico da parte della federazione, l'ho accettato di buon grado, anche perché l'ho considerata un po' una sfida. Direi giocata in una giusta maniera, perché ad oggi mi sento molto gratificato di questo impegno. Ma sei gratificato dai risultati, dalle ragazze, da che cosa? No, sono gratificato da tutto, un po' dal mondo che circonda e dal mondo che fa parte del calcio femminile. È diverso l'ambiente? Non a livello tattico-tecnico, cambia a livello mentale. Queste ragazze hanno una passione sfrenata e hanno voglia di imporsi più che i cugini maschietti. Ma uno spogliatoio tutto di donne è un inferno da gestire? L'uomo è molto più facile da gestire, perché è anche più facile da convincere. E questi ragazzi, cioè, sono molto attenti a qualsiasi cosa, cioè ti fanno pelo contro pelo anche sulle virgole, quindi devi stare attento. L'8 maggio c'è la prossima partita per la qualificazione mondiale a Skopje contro la Macedonia, che è l'ultima del vostro girone. Sarà una passeggiata di salute per le tue ragazze? Me lo auguro che sia una passeggiata di salute. Non dovrebbero essere nessun tipo di problema. Anche per la nazionale di calcio femminile, però, la Spagna è la squadra da battere, giusto? Sì, esatto. Cabrini, ma ci vogliono le quote rosa anche nel calcio? Se sono quote rosa che hanno delle qualità per gestire lo sport in Italia, ben vengano. Se è come quando nasce un nuovo governo, che magari viene fatto un ministro, uno che non è mai della sanità, che non ha mai capito niente di medicina. Per me è impensabile questo discorso. Sara, abbiamo fatto una scoperta, che non gli piaceva essere chiamato il Bell'Antonio. Ah, non lo sapevi? Mai avrei immaginato, no, mai avrei. Tra l'altro, se non sbaglio, nella classifica dei 10 calciatori più sexy, più belli, sì, che hanno fatto sempre. In Brasile, che ha fatto Globo, sì, assolutamente sì. Però lui mi ha confessato che adesso, che è un po' cresciutello d'età, è contento. Eh beh, immagino. Sara, settimana prossima, martedì. Ciao. Ciao, Matteo dalla provincia di Milano. Ciao. Prego. Io volevo fare una considerazione. Sì. Io sono milanista e, visto quello che è successo ieri al Liverpool, voglio dire questo, che chi di rigore ferisce, di rigore ferisce. Che nemesi, cioè, di 3-3 ferisce, di 3-3 ferisce. Hai goduto? Goduto no, vabbè. Però è una ruota che gira. Sì, sì, ma è il bello del calcio, è successo, risuccederà ancora, io non so quante volte succederà, l'ha detto Ancelotti, probabilmente non succederà mai più in una finale quello che è successo a Istanbul quella notte, però è vero, c'è anche questo aspetto, oggi sono tanti tifosi del Milan che si sono divertiti ad aver visto ieri il Liverpool 3-0, 3-3, il migliore di oggi, William da Venezia. Perfetto, pronto? Perfetto. Prego. Posso chiedere una cortesia? Sì. 4 giorni che si parla di questa situazione, sì, della Coppa Italia. Okay. Se il tifo, cioè chi è andato a parlare con la curva, giusto? Sì. Dirigenti, polizia, AMSIC, giusto? Se aveva questa maglietta poteva spostarlo e parlare con uno che aveva la maglietta con scritto Viva Padre Pio, giusto? Sì, a trovarlo. Due, se aveva la maglietta con scritto Padre Pio non succedeva niente? Una maglietta con su scritto Padre Pio, bah, a trovarlo. Zanetti ha detto alla Nación che si ritira, ha detto i tre compagni più forti con cui ho giocato sono stati Ronaldo, Baggio e Messi, i tre rivali più forti Giggs, Kakà e Zidane, rigiocherebbe, pensate, la finale di Madrid del 2010. Io pensavo che avrebbe risposto, non so, il 5 maggio, per magari scrivere un finale diverso. Ci fermiamo qui, Franco Piantanide, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in regia, Robby Scaltritti in redazione, Robby Scaltritti in regia, un saluto, domani torna Carlo Genta. Io sabato sono arrivato allo stadio, ero a casa di mia amica 5 minuti allo stadio, sono arrivato con un mio amico, sono entrata alle 9.01 allo stadio, la partita è sospesa, che facciamo? Vabbè, mi riappoggio un attimo a casa, sono arrivato, c'era la Gnice appena scolata e lì devo chiedervi perdono a tutti, ho tradito clamorosamente, volevo tornare e mi è dispiaciuto non tornare, quando la partita è ricominciata mi è venuto anche il nervoso, ma la Gnice è la Gnice.